Ma dare secondo le lei, Ugemi, mi scusi, ma secondo lei la polizia dovrebbe intervenire a questo punto e sgomberare con la forza, se necessario, i blocchi? Ma è evidente che nel momento in cui viene coartata la libertà di un individuo, così come deve essere garantita la libertà di manifestare e di rappresentare il proprio disappunto, altrettanto deve essere garantita con i metodi che sono previsti la libertà di coloro che vogliono circolare. Non è consentito, è un reato il blocco stradale. Quindi lei, voglio dire, se questi non si muovono da soli è per l'intervento delle forze dell'ordine? Ma mi pare evidente, ormai a livello nazionale le notizie che ci arrivano è quello di un sostanziale diminuzione della presenza di queste realtà che stanno creando delle difficoltà in alcune zone del paese. Quindi certamente noi siamo a conoscenza di interventi forti da parte delle forze dell'ordine, di alcune prefetture in particolare, che hanno deciso di dare attuazione all'invito del ministro Cancellieri e quindi di consentire la libertà di circolare a coloro che lo vogliono fare.